Gesù Cristo, il principio, e l'Io sono. In tutte le lingue una parola ha più significati. In italiano, per esempio, il termine letto si riferisce sia a quel mobile destinato al riposo o al sonno delle persone, sia al solco nel quale scorre l'acqua di un fiume o di un ruscello, sia alla parte inferiore del sacco della rete da pesca, sia a quella specie di slitta con la quale si vara una nave, oppure anche al participio passato del verbo leggere. Nella lingua ebraica, per esempio, abbiamo il vocabolo Adam, che significa tanto il nome proprio del primo essere creato da Cristo, cioè Adamo, quanto uomo. La stessa pluralità di significato di una voce esiste anche in greco, dove l'avverbio amen significa così sia, ma nel Nuovo Testamento unicamente in Apocalisse 3,14 è usato come nome proprio riferito a Gesù. Da collegare con Isaia 65,1-6 nella versione ebraica. Proprio tenendo conto questo aspetto poliedrico delle parole, prendiamo in esame un termine greco adottato a nome proprio riferito a Gesù, e il cui corrispondente italiano è il vocabolo principio. Il termine greco è avrot, arché in italiano principio. Si trova 55 volte nel Nuovo Testamento e indica sempre un primato, sia uno di tempo, inizio o origine, sia due di luogo, punto di inizio di partenza, o tre di grado, dominio, potenza, sovranità, carica. Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, Paideia Horst Balz e Gerhard Schneider. Ma in alcuni brani questa parola assume la veste di nome proprio attribuito a Gesù, rivelando verità sorprendenti. Nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, nel corso di uno dei suoi soliti confronti con i giudei, troviamo il termine principio in veste di nome proprio attribuito a Gesù, notando però la quasi totale mancanza di rilevanza da parte della maggioranza di studiosi o traduttori, dovuta forse a un imbarazzo da parte loro di fronte a questa verità. Egli diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vi dico». Giovanni 8,2-3,25. In questa discussione Gesù sta dichiarando la sua essenza, mettendola in contrapposizione a quella dei suoi ascoltatori. Gesù sta dicendo di essere diverso da tutti gli altri uomini, che nessuno è come lui, perché lui appartiene, diremmo oggi, ad un altro pianeta. «Mentre voi siete di questo mondo», dice Gesù, «io non sono di questo mondo». Certo, che parole del genere proferite oggi da una qualsiasi persona come minimo la porterebbero direttamente in un istituto per malati mentali. Eppure Gesù non era matto. Le affermazioni umanamente squilibrate di Gesù proseguono sempre più incalzanti e, per quanto apparentemente sconsiderate, destano pur sempre l'attenzione degli astanti perché provenienti da una persona sensata e in più maestra nella legge. Agli ascoltatori che pazientemente ne sostengono la conversazione, Gesù dichiara non solo di appartenere ad un altro mondo, ma, mediante la locuzione «io sono», in greco «ego eimi», egli rende noto addirittura di essere già Haksha, ue Haksha, la divinità dell'antico patto, apparso ai padri e ai profeti. Così, nel suo libro «Il Vangelo di Giovanni», edizioni G.B.U. 2003, in una nota aggiuntiva a Pag 169, Colin G. Kruse commenta il termine ego eimi. Nel quarto Evangelo Gesù usa la formula ego eimi in tre modi diversi. 1. Con un predicato. Io sono il pane della vita. 6.3, 5.41, 48, 51. Io sono la luce del mondo. 8.12. 2. Con un predicato implicito. Io sono colui, io sono quello che è indicante che egli è il Messia. 4.26, 8.2, 4.28. 3. Come assoluto, forse in 8.2, 4.28, 18.56, e certamente in 8.58, prima che Abramo fosse io, sono. Quando Gesù disse ai giudei, prima che Abramo fosse nato io sono, stava identificandosi con Dio. Non stava solo pronunciando il nome di Dio, cosa che di norma i giudei non osavano fare, ma, peggio ancora, stava dichiarando di essere Dio. Lo studioso Colin in questo caso commette una grave contraddizione di termini perché prima afferma che Gesù si è identificato con Dio e poi attesta che Gesù dichiara di essere Dio. L'opinione secondo la quale in questa occasione Gesù stava attestando di essere Yahweh, cioè il Dio di cui parla l'Antico Patto e condivisa da altri teologi e i giudei presenti che avevano capito meglio di noi ciò che Gesù stava dicendo, rimasero talmente stupiti da dovergli chiedere: «Ma tu chi dici di essere?» Senza ombra di dubbio, nei Vangeli non troviamo scritto spesso che alcune persone domandino a Gesù in merito alla sua identità personale, perciò la risposta di Gesù deve essere presa in seria considerazione, perché siamo di fronte ad una testimonianza unica. In questo momento Gesù presenta la sua carta di identità. Purtroppo la risposta è stata riportata variamente perché i traduttori si sono resi conto del grande imbarazzo eventualmente comportato dal tradurre in italiano la dichiarazione di Gesù relativa a se stesso. E questo è comprensibile perché la risposta di Gesù è talmente fuori dall'ordinario da lasciare confusi. Proprio per la diversità di traduzione leggiamo alcune versioni. Alla domanda da parte dei giudei, «Tu chi sei?», così è stata variamente traslata la risposta. Bibbia Nardoni, che cosa vi ho dichiarato fin da principio? Concordata sempre quello che vi ho detto fin da principio. Salvatore Garofalo, assolutamente quello che vi dico. Bibbia di Gerusalemme, proprio ciò che vi dico. Come il Nuovo Testamento greco e italiano, di Merche Barbaglio. La nota più significativa è certamente quella della Bibbia Bonaventura Mariani, che traduce in questo modo. Ed egli loro, voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto dunque che morirete nei vostri peccati. Sì, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli chiesero allora, tu chi sei? Rispose loro Gesù, il principio, ciò che appunto vi dico. Bisogna dare atto a questa traduzione forse unica nel suo genere fatta dal reversetto Pilino Cignelli, ma che del resto è letteralmente fedele al testo greco. Infatti Gesù risponde th.navrch.n, cioè il principio, come del resto rende la Vulgata, principium. Ancora più interessante è la nota a piè pagina di questo versetto a pagina 1980. Passo difficile, variamente tradotto. La nostra traduzione si basa sul contesto prossimo e remoto. Qui è ripreso meno ci pare meno un tema accennato nel prologo 1.1. Il termine principio è da ricollegare, come suggeriva S. Agostino, con il nome divino Io Sono del versetto precedente. L'associazione di primo e Io Sono con il nome Yahweh compare già nel Deutero Isaia, Is 41.4, 44.6, 48.12, per sottolineare l'eternità di Dio, e ritorna in Apocalisse 1.17, 21.6. Gesù, autodefinendosi principio, si mette di nuovo sullo stesso piano di Yahweh, versetto 24 nota. Tuttavia, dato che th.n e vrch.n, che noi traduciamo qui col sostantivo il principio, potrebbe essere un avverbio, con il doppio significato fin da principio o del tutto, interamente affatto, la grande maggioranza degli esegeti interpreta assumendo l'uno e l'altro significato sono ciò che vi dico fin dal principio di essere o del tutto perché vi parlo. In questo caso la frase diventa interrogativa, leggendo invece di o ti ciò o ti perché. La Vulgata Sisto Clementina ha principium qui e lo quor vobis, con un'evidente forzatura grammaticale, ma i codici più antichi hanno diversamente. Anche lo studioso Colin vede queste difficoltà commentando le parole th ante funto n avrch.n potrebbero essere intese sia come sostantivo accusativo, il principio, o come frase avverbiale, pag 264. Dunque, anche se non sono molti ad affermarlo, Gesù non ha detto di essere quello che stava dicendo, ma con la sua risposta ha sostenuto di essere il principio, cioè colui che troviamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, e cioè in principio era la parola. Ma non è la sola volta che la parola di Dio attribuisce il sostantivo principio a Gesù, come si può vedere anche nel libro dell'Apocalisse. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. App 3.14. Sempre la Bibbia di Bonaventura Mariani commenta in nota che il termine principio in questo caso è una chiara allusione a Genesi 1, pag 2238. Anche l'Apostolo Paolo usa il termine principio come sostantivo riferito a Gesù, e precisamente nella lettera ai Colossesi. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Colossesi 1.15.18. Ora, se il termine principio attribuito a Gesù è un nome proprio, è possibile leggere le prime parole del Vangelo di Giovanni in questo modo: in principio, cioè in Gesù era la parola. Se letto in questo modo, i cristiani vi trovano una delle più forti affermazioni della divinità di Gesù. Ma non solo. Se prendiamo sul serio l'accostamento indicato nella Bibbia di Bonaventura Mariani e anche di altri traduttori tra Giovanni 1 con Genesi 1, restiamo senza parole. Infatti è indiscutibile che Giovanni abbia iniziato il suo Vangelo con la stessa espressione usata in Genesi da Mosè per descrivere la creazione di ogni cosa, e perciò si può leggere il detto passo: in principio, cioè Cristo creò i cieli e la terra. Questa traduzione potrebbe anche sconvolgere alcuni, ma non ha nulla, e proprio nulla di sbagliato con il resto della rivelazione di Dio, perché è fuori discussione che è stato Gesù a creare ogni cosa. Giovanni lo dice senza ombra di dubbio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Giovanni 1.3. Inoltre, in ebraico alcuni studiosi hanno fatto notare che il primo versetto della Genesi può anche essere letto: in figlio Dio creò i cieli e la terra. Sconvolgente come notizia, ma nulla di nuovo. Dopo queste riflessioni è possibile avere ancora dubbi non solo sulla deità di Gesù, ma che il Dio creatore annunciato in Genesi sia Cristo? Un contributo su questo argomento ci viene da Agostino nel suo libro Città di Dio, edizioni Paolin 1973, pag. 642. Le parole in principio non significano l'inizio della creazione, poiché gli angeli sono stati creati prima. Esse vogliono dire che Dio ha creato tutto nella sua sapienza, ossia nel suo verbo, verbo che la scrittura chiama il principio. Egli stesso lo ha dichiarato nel Vangelo quando i giudei che gli chiesero: e tu chi sei? Rispose: io sono il principio. Giv 8.25. Dunque, Agostino, 1700 anni fa, non aveva dubbi che Gesù, a chi gli domandava chi fosse, avesse risposto il principio. Eppure, i traduttori di oggi sono imbarazzati. Cosa è successo? Perché? Gennaio 2008. Ellero